Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre, alcune rapide informazioni di servizio. La prima riguarda il nostro sito radio24.it. Per chi avrà la bontà di visitarlo, scoprirà che c'è anche il profilo di ciascun giornalista. Quelli che hanno un blog possono interloquire con i propri radioascoltatori e lettori. Infatti il mio blog Guardie o Ladri è tanto sul sito di Radio 24 quanto sul sito del Sole 24 Ore. Secondo informazioni di servizio, la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, devo dire che mai mi era successo di assistere ad una sollevazione da parte dei politici, degli imprenditori, meno, ma comunque c'è stata, della società civile, sollevazione per la cancellazione in Calabria o per la soppressione o per un cambio di palinsesto, chiamiamolo come vogliamo, di una trasmissione appunto televisiva che andava in onda su Telespazio, TV privata calabrese, il cui nome è tutto un programma, scusate il gioco di parole. Si chiamava Perfidia. Avrete capito che questa trasmissione appunto non c'è più. Si chiamava Perfidia perché la giornalista che la conduceva, in maniera perfida, ma ironicamente perfida, devo dire, con tono e capacità, invitava nel suo salotto imprenditori, politici, gente comune, per parlare del bene e del male di questa terra. Nelle mie tante inchieste in Calabria per il mio giornale, per il Sole 24 Ore, mi è capitato spesso di assistere a quella trasmissione. Devo dire che per avere un'informazione in più, una voce in più, mi fermavo a guardarla. Quella trasmissione non c'è. Per parlare di libertà di informazione e di stampa in una terra martoriata dagli uomini e benedetta da Dio, noi abbiamo appunto la Calabria, abbiamo il nostro ospite Antonella Grippo, che era la giornalista e conduttrice della trasmissione. Buongiorno Antonella. Buongiorno Roberto, lieta di ritrovarti. Grazie. E abbiamo nostro ospite in questa puntata, domani ce ne sarà un'altra, l'onorevole Angela Napoli, che è componente della Commissione parlamentare antimafia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Antonella, partiamo da te. Subito con una domanda diretta, senza tanti giochi di parole. La tua trasmissione è stata chiusa perché dava fastidio oppure perché il palinsesto aveva bisogno di essere rinnovato? Guarda, la storia di Perfidia resta tutt'oggi particolarmente oscura ed inquietante. Del resto già il titolo recava un presagio funesto. Il titolo era Perfidia, il nero in onda della politica. Gli addetti ai lavori sanno, Roberto, che il nero in onda è la sospensione del flusso delle immagini, quindi il dispiegarsi dell'abisso nero. Io ho scontato sulla mia pelle il nero in onda, nel senso che sono scomparsa. È accaduto quanto segue, che lunedì successivo alle elezioni regionali io ero pronta per fornire i risultati ai miei telespettatori e ho rilevato immediatamente la estrema spoliazione tecnica della trasmissione. Sono andata in onda senza cameraman, a telecamere fisse, una telecamera fissa, la cosa durava già da una settimana ed è stato innescato secondo me un dispositivo perché io reagissi e mi innervosissi. La spoliazione tecnica è stata clamorosa, soprattutto in occasione dell'intervista a Maurizio Gasparri e a Marco Pannella. Mi hanno fatto sapere che doveva andarmi bene così, perché altrimenti l'azienda non aveva intenzione di dotarmi del personale di quanto mi occupavo. Ecco, ma tu non hai mai avuto un colloquio? Ecco, non hai mai avuto un colloquio diretto con l'editore, con il direttore responsabile? L'hai mai avuto oppure sei anche tu in attesa di spiegazioni? No, io non ho mai avuto un dialogo negli ultimi 3 mesi con l'editore, il quale, come noto, vive a New York. A lui ho indirizzato una serie di mail per chiedergli spiegazione di questo improvviso impoverimento della trasmissione, ma non ho mai ricevuto risposta alcuna. Credo si sia trattato in buona sostanza di una offensiva per innervosirmi. Così è accaduto, io mi sono innervosita, ho reagito in diretta, ho detto perfidia, tornerà solo se potrà disporre della sua naturale, no, e costituzionale effervescenza, come sai. Insomma, assolutamente. In televisione le immagini vantano un primato rispetto alle parole, io chiedevo solo il minimo mi è stato negato. Certo, allora noi abbiamo cercato Tony Boemi Junior, che è direttore responsabile e proprietario di maggioranza di Telespazio Calabria, lo abbiamo tempestato di mail, di telefonate, perché questo programma, come voi sapete, dà sempre la parola parte contro parte. Non siamo assolutamente riusciti a metterci in contatto con Tony Boemi Junior. I nostri microfoni sono ovviamente sempre aperti, perché quando si spegne una voce dell'informazione, a mio giudizio va sempre data una spiegazione. Qualunque voce, anche contraria al proprio pensiero, va sempre tenuta accesa, e se va spenta va dato spiegazione. Prima di tornare da Antonella Grippo, vorrei chiedere ad Angela Napoli che cosa vuol dire per la Calabria, già martoriata da di tutto di più, il venir meno di una voce. Senza dubbio un fatto ulteriormente negativo, perché Perfidia era una trasmissione peraltro di legittimo confronto, non è mai stata una trasmissione di parte. La giornalista bravissima Antonella Grippo l'ha sempre condotta con grande pregio, aveva un ascolto molto diffuso, oltretutto si estendeva al di fuori dei confini della Calabria, e la cosa che mi crea ancora maggiore turbamento è il fatto che l'editore in tempi passati è stato molto consenziente, anzi estremamente favorevole al contenuto della trasmissione stessa. Io mi sono sentita, ho partecipato tantissime volte, mi sono sentita molto libera, tranquilla nel confronto, e peraltro un confronto aperto, i cittadini telefonavano, intervenivano tranquillamente, anche con punti di dissidenza rispetto a quello, certo, che i partecipanti dicevano. Beh, ma questo è normale, è caratteristico della democrazia e della libera informazione. Assolutamente. Del resto, se così non fosse, sarebbe la fine della democrazia e del dialogo, che in Calabria, ripeto, è particolarmente difficile. Vorrei tornare da Antonella Grippo per chiedergli due cose in rapida successione. La prima è questa: ma la reazione della cosiddetta società civile c'è stata o non c'è stata? Cioè, la tua mail, il tuo telefono, la tua redazione è stata presa, come dire, d'assalto da calabresi che hanno detto oibò, una voce si è spenta, cerchiamo di capire di più, oppure no? Seconda domanda: in un mercato libero, qualora ce ne fosse, tu avresti mercato, cioè dovresti avere la coda di persone che dicono Antonella, vieni a lavorare con noi. Ecco, qual è la situazione, Antonella? Allora, la cosiddetta società civile, passiamo il termine anche se è desueto, ha avuto una reazione flebile. Devo dirti, Roberto, che io non disponevo di alcuna redazione, che lavoravo in assoluta solitudine, non avevo nulla, nessun collaboratore, quindi dall'A alla Z mi occupavo di tutto. La società ha reagito attraverso Facebook, attraverso la rete, c'è un gruppo di sostenitori di 1500 persone. Ecco, diciamolo. Dopodiché, qual è questo gruppo? Devo dire una cosa abbastanza anomala e singolare: spesso si espone la politica al pubblico ludibrio, no? Come se fosse il luogo di tutte le nefandezze possibili, e invece nella fattispecie devo dire che la politica in modo bipartisan si è espressa a sostegno della trasmissione. Infatti è per questo che io sono intervenuto con questa puntata e con quella che faremo domani, perché mi sono accorto proprio della appoggio da tutte le componenti politiche. Antonella, ma offerte di lavoro te ne sono giunte in questo momento oppure no? Sei alla finestra, come si suol dire? Io un'offerta di lavoro sì, dal Quotidiano della Calabria, che è l'unico giornale che mi ha sostenuto apertamente, mentre tutti gli altri giornali hanno ignorato il fatto, questo lo voglio dire. Non c'è stata la vicinanza dei giornalisti, fatta eccezione per il Quotidiano della Calabria, per il suo direttore Matteo Cosenza, l'editore Antonella Dodaro e la collega Stefania Papaleo, che mi hanno dedicato grande attenzione. Spazio. Ecco Antonella, vogliamo dire il gruppo di Facebook come si chiama, come si può trovare in maniera tale che chi sì, vuole può andarci? Sosteniamo Antonella Grippo, è benissimo. Un gruppo di 1300 persone credo, ma io una spiegazione ce l'ho a proposito della soppressione di Perfidia. Allora Antonella, guarda, fermiamoci un attimo perché questa spiegazione torneremo a darla nella puntata di domani. Io ringrazio Angela Napoli, per il momento ringrazio anche te, ma ci sentiamo domani, e ringrazio in regia Paolo Corleoni e in studio Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo, vi dà appuntamento a domani per ritornare sul tema della libertà di informazione stampa in Calabria.